Pane burro rock and roll, 7:31 minuti primi. Qualche problema? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Sarà con noi anche quest'oggi l'equipaggio dell'A-Team. Avremo il colonnello John Hannibal Smith, tenente Sberla e tutti gli altri insieme a noi. Aggiornamenti sul miracolo di San Gennaro, ieri è arrivato, Se lo ricorda Gianfranco, il nostro radioascoltatore napoletano. O fricantò, vado a leggere, o granchietta riei. San Gennaro ha fatto un miracolo alle 9:31, alla faccia e quelli che non credono un miracolo è San Gennaro. No, mi sono fermato troppo prima, era così. Alla faccia di quelli che non credono miracolo di San Gennaro e Super Rock. Bella Gianfranco. Speriamo porti bene anche a noi allora. A proposito, ne arrivava un altro di messaggio. Si è squagliato sangue. Prossimo miracolo, escono i numeri dell'Ariele. Come lo vedete, un pubblico di milionari? Ragazzi, noi puntiamo a quello, È ovvio. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll. E lui invece è Bruce Springsteen. Oh yeah, Glory Days. Come on now. Oh yeah. Bruce Springsteen, Glory Days. No raga, devo smetterla sta storia della della smorfia, perché voi non capite quanto io realmente creda nella possibilità di darvi dei numeri giusti, più che altro quanto sto dietro mentre vanno i pezzi. Io sono lì che smanetto dietro al libro della smorfia per vedere, farmi venire una buona idea per i numeri di oggi. Carlo, mi raccomando, Carlo della tabaccheria, pensaci bene anche tu, che insomma, dobbiamo darla giusta. L'idea è quella, e se si vince, ragazzi, si smazza. Oggi mi sento proprio come Murdoch. Vado in dita e li faccio impazzire. Sam da Firenze, post-scriptum, I love rock and roll, bravo. Siamo in tanti qui ad amare il rock and roll, perché siamo dei veri rocker. Si legge dai vostri messaggi, clima di festa in preparazione dei due appuntamenti. Fondamentalmente ne abbiamo due appuntamenti importanti tra poco. Uno è quello di domenica prossima, domenica 30 settembre, quando presenteremo al pubblico la patente da vero rocker. Ragazzi, ieri ho comprato un registro del professore originale per segnare tutti i vostri dati, che è un amore. Era da anni che sognavo poter possedere un registro del professore, ce l'ho. Fantastico. L'altro è l'appuntamento invece all'Alcatraz di Milano il sabato successivo per la festa dei 17 anni di Rock FM, sabato 6 ottobre. Preparatevi, mi raccomando, domenica prossima e il sabato successivo. È ovvio che se non potete venire e non vi presentate, dovete prepararvi una buona scusa. Mica vi lasciamo andare così. Se non avete una buona scusa, fuori. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Direttore, mi perdoni, parlo sul serio, non so come scusarmi per il ritardo di questa mattina, ma lei che è uomo di mondo, che sa quanti incidenti, quanti imprevisti possono capitare, lei deve ascoltarmi. All'improvviso, vede, mi è successo una cosa assolutamente impossibile a prevedersi. Lei sa che abito un po' fuori mano, un po' in periferia, vicino a quel maneggio, sì, e deve sapere che uno dei cavalli, io credo sia impazzito, comunque si è imbizzarrito. Il vicino, che era solo in quel momento nella stalla, era molto tardi, era dopo cena, non sapeva cosa fare, ha suonato il mio campanello. Io stavo per andare a riposarmi, appunto per svegliarmi questa mattina riposato, sveglio, efficiente per il lavoro, ecco. Sono dovuto scendere di corsa, rendermi conto dell'accaduto, poi siccome un mio zio mi ha regalato una doppietta, ho dovuto afferrare la doppietta e abbatterlo. Il ritardatario ritardato, non dimenticate. Una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Ma abbattere il cavallo, direttore, non il vicino. Lei sa che non sono un assassino. Numbers 444. I got a mojo, and don't you know I'm all dressed up, no place to go. I got women to the left of me, I got women to the right of me, I got chicks all around me, but I ain't got you. I got

a luglio, agosto, settembre nero. La grande musica con la G maiuscola e la M bolsettata di Rock FM per la colazione di pane, burro e rock and roll. L'Ariele Spadino Freak, questa è la squadra. 335-100-7777, la vostra linea di contatto via SMS per quelli già svegli, per quelli che già la fanno a interagire con noi. Allora, un saluto a Marco che commenta il singolo della Rock FM All Star Band. Io non ho ancora avuto il piacere di programmarlo, in questi giorni sicuramente lo farò. Cos'è la Rock FM All Star Band? Per chi non lo sapesse, Rock FM, oltre ad essere una radio molto particolare, e di questo potevate rendervene conto da soli, è anche l'unica radio che ha una band aziendale, un gruppo aziendale, nel quale tra l'altro faccio parte anch'io, con la mia chitarrina rumorosa. Lui ha sentito Sitting on the Dock of the Bay, questa è la nuova cover che abbiamo proposto ai nostri radioascoltatori, si complimenta. Ma tu cosa fai? Il coro? Hai rubato il microfono a Marilyn Manson, mi chiede. No, non ricordo esattamente la versione, dopo me la riascolto. Sì, ho fatto anche i cori, ma era... Boh, intanto ho risposto anche un altro che chiedeva che strumento suono, la chitarra. Male, ma la chitarra, come potrai anche intuire dalle canzoni che suoniamo qui a Pane, Burro e Rock and Roll. A proposito di Sitting on the Dock of the Bay e a proposito di Rock FM All Star Band, in occasione della festa dei 17 anni di Rock FM, grazie a RadioRockFM.com, il nostro sito, potete anche scaricarvela, la canzone suddetta, quindi se siete curiosi fateci un giro e ascoltatela, altrimenti venite il 6 e ve la gustate dal vivo. È bello perché tra i vari gruppi d'ascolto che abbiamo, ne abbiamo talmente tanti che c'è sempre uno specialista, c'è sempre uno che la sa precisa. Mi riferisco al tormentone che porteremo avanti fino a Natale del Lampione Crepuscolare, ormai spento, e ci aiuta Massimo, gruppo d'ascolto elettricista dell'acquedotto. Non è pericoloso fare gli elettricisti in un acquedotto? Cioè, storie di acqua e elettricità è pericoloso, eh? I crepuscolari hanno la regolazione della sensibilità. Ciao, grazie. Anch'io un po' la regolazione della sensibilità. Ultimo saluto a Filippo, gruppo d'ascolto GBP Basket Milano. In guardia a tutti voi rivali, quest'anno siamo fortissimi. Bravi ragazzi, anche dei cestisti all'ascolto. Che orgoglio, che orgoglio! Quasi quanto l'orgoglio di guardare le migliaia di cartoline postali che ci avete inviato questa estate. Vi saluteremo tutti. Freak, corri a prendere una nuova tripletta e salutiamo gli amici. Via! It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, I look alright, and I say. Nuova tripletta di cartoline, sempre nell'ambito del progetto Salviamo la cartolina dallo strapotere delle nuove tecnologie. Progetto in esclusiva di Pane, Burro e Rock and Roll. Sa dove andiamo quest'oggi, viaggiando con i nostri radioascoltatori? Tutti dove? Al mare. Dove? Ma nelle isole grandi, vedo, nelle direi, grandi isole. Direi nelle grandi isole. Partirei da Siracusa, con una cartolina divisa in quattro scorci di Siracusa, una fontana, un ponticello, una veduta aerea e un porto. E un porto, direi, benissimo, dalla Sicilia. A quei cialtroni di Rock FM, anche se la cartolina non è molto rock, ci siamo impegnati a salvarla dall'estinzione. Scusi, faccio notare che cialtroni è fra virgolette, quindi bonaria, bonaria. Con i nostri punti della patente qua giù non ci facciamo niente, scrivono sconsolati tanti amici, SDA da Genova, Temina e Lucio. È sempre difficile scorgere. Lo so. Ci sono momenti in vacanza in cui ci si deprime, amici. Capita a tutti, ma non dite eresie, non bestemmiate, per favore, sulla cartolina. Non scrivete queste cose contro la patente di veri rocker. Trasferiamoci. Sapete, la patente è sacra. Trasferiamoci dalla Sicilia. Dove? Alla Sardegna. Ah. Grazie a Paolo della Rovere, e lui a pagarci il viaggio. E andiamo in uno scorcio roccioso della Sardegna. Sì. Di una roccia che sembra un elefante. Sì, sì, una roccia che ricorda naturalmente, io penso. Infatti si chiama la forma, roccia dell'elefante. La guardi forma un po' dell'elefante, lei. Infatti. Si trova a Castelsardo, che se non ricordo male è pure il, potrebbe essere la città natale di Max Derio. Dovremmo chiedere. Ah, del dopo grande chiediamo. DJ sì, di sì. Rock FM, Max Derio. Paolo da Genova si chiede se questa cartolina semplicemente è abbastanza rock. Sì, perché è di roccia, la capita? Molto, molto raffinata. Restiamo in Sardegna per l'ultima di questo blocco. Saluti e baci dalla Sardegna. Gran mare. Non so. Ma classica, anche qui con riquadri di scorci naturali. Vado a leggere Salviamo la cartolina, cari fricche d'Ariele, passo delle ore in auto sotto il sole sardo cercando Radio Rock FM. Non posso neanche mandare un SMS perché il cellulare non prende, ma resto in contatto con la fedelissima cartolina. Viva la cartolina, Joe da Cusano, milanino, che dimostra come in Sardegna non si sente Rock FM, a volte non prende il cellulare, ma una cartolina può andare. Certo, dimostra. Ha capito il messaggio. Ma naturalmente la grande affezione del pubblico di Rock FM, che ha capito tutto. La cartolina funziona ancora. Under the octopus with the steeples, ancient goblins and wallow. Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To the sacred place, this ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are clicking up bones. Spirits mourning, I'm on the tombstone. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. Stop that. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is rotting. to dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried. Non ho nessuna intenzione di essere imbarato in un cimitero di animaletti. Questa è la traduzione di un capolavoro targato Ramones, Pet Sematary. Pochi secondi alle 8, siamo in ritardissimo. Qualche secondo di pubblicità e tra pochissimo andiamo a svegliare gli amici e le amiche che hanno il buon cuore di puntare la sveglia alle 8 precise sulle frequenze di Rock FM. Restate lì!